Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, ben ritrovati in diretta da Deborah Rosciani e Salva Danaio. L'Euribor ricomincia ad alzare la testa. La scorsa settimana il tasso interbancario a tre mesi ha toccato il suo livello massimo da circa 10 settimane a questa parte, il che da una parte è una buona notizia perché significa che in qualche modo il mercato interbancario è sempre di più sulla via della normalizzazione. Se i tassi riprendono a salire vuol dire che siamo sul sentiero della ripresa economica, che comunque rimane molto moderata, molto modesta, molto lenta. E vuol dire anche che le banche hanno sempre meno bisogno del sostegno della Banca Centrale Europea e hanno ripreso più o meno a scambiarsi denaro fra loro a costi accettabili. Ma la risalita dell'Euribor implica anche altre conseguenze, cioè la graduale risalita delle rate dei mutui a tasso variabile, che stanno comunque continuando a viaggiare su livelli bassissimi, dato che i tassi europei sono ai minimi storici assoluti. Tranquillizziamo subito gli ascoltatori: il rialzo di cui stiamo parlando è davvero quasi invisibile, però è un piccolo segnale, anche se non è detto che poi la tendenza sarà di nuovo questa a lungo. In ogni caso, questo movimento che abbiamo visto, che è stato anche abbastanza enfatizzato da alcuni giornali, ci ha comunque indotto a fare, e lo faremo stamattina radiofonicamente, un tagliandino estivo al mutuo, sia per chi vuole fare magari un trasferimento da una banca ad un'altra, sia per chi sta decidendo di sottoscriverlo ora e magari ha bisogno delle consuete, solite indicazioni e raccomandazioni allora per orientarsi in questo panorama. Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, è tornato da noi. Buongiorno Roberto, bentornato. Grazie, un ben trovato a tutti gli ascoltatori. 800 24 00 24, il numero verde per gli amici che ci seguono da casa e che possono chiamarci per farci delle domande su questo argomento, oppure scriveteci al 349-238-6666. La borsa stamattina brinda, non si sa bene a che cosa, perché Alcoa ieri ha pubblicato i suoi risultati trimestrali negli Stati Uniti. Come sempre Alcoa, il gigante dell'alluminio, è la società che apre il valzer delle trimestrali americane. I risultati sono stati piuttosto buoni, superiori alle attese, ma stamattina la borsa europea non se n'è accorta subito. In realtà è partita un po' con il piede non particolarmente schiacciato sull'acceleratore e poi a metà mattinata ci ha ripensato e ha cominciato a rafforzare i guadagni su tutti i principali listini. Parigi adesso più 1,39%, Francoforte più 1,34%, Londra guadagna 1,5% e Milano l'1,28%. Quindi un mercato che non ha neanche guardato tanto alla riduzione di giudizio sul debito da parte di Moody's nei confronti appunto del Portogallo, ne abbiamo parlato nel giornale radio, ma sembra aver colto invece con maggior favore, con maggior serenità, il successo dell'asta dei titoli greci. Il governo greco ha collocato titoli di Stato a 26 settimane per 1 miliardo e 625 milioni di euro. In realtà inizialmente il pacchetto offerto dal governo greco ammontava ad 1 miliardo e 250 milioni di euro, ma la domanda è stata tre volte superiore all'offerta, 3 miliardi e mezzo di euro, e quindi i titoli collocati sono stati di più rispetto al previsto, e questa è stata appunto una buona notizia. Evidentemente c'è ancora domanda per questi titoli e quindi il mercato obbligazionario appare un po' più sereno. L'euro sul dollaro a 1,2584, i migliori titoli di Milano: Fiat più 2,61, Buzzi più 2,10, Popolare di Milano più 1,81, Intesa più 1,75, Finmeccanica, il gruppo guadagna l'1,70%, Parmalat più 1,51, CIR più 1,46%, debole Snam Rete Gas che è comunque sulla parità, e deboli anche i titoli assicurativi, sono quelli che guadagnano meno, più 0,2% per Unipol e Fondiaria. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi e ritorniamo sui mutui. Dopo aver stazionato a lungo sui minimi storici, l'Euribor ha rialzato la testa. Nell'arco di circa tre mesi è passato infatti dallo 0,64% circa, minimo storico, a valori attuali ben più elevati, che l'hanno visto sfondare nei giorni scorsi la soglia dello 0,80%. Questa ascesa, cui segue automaticamente quella della rata mensile, potrebbe essere solo all'inizio. L'Euribor a tre mesi è il tasso a cui milioni di famiglie hanno indicizzato il proprio mutuo per la casa, quando hanno scelto di affidarsi all'ormai nota formula del tasso variabile. Essere ancorati a questo indice, dunque, è stato per molto tempo conveniente. Livelli contenuti del tasso hanno infatti garantito rate più basse. Ma ora la situazione potrebbe essere arrivata ad una svolta meno vantaggiosa per i mutuatari. Può invece dormire sonni tranquilli, da questo punto di vista, chi ha già sottoscritto un finanziamento a tasso fisso, che non è vincolato a queste oscillazioni. In questo clima di incertezza, la soluzione potrebbe essere la scelta dei cosiddetti mutui variabili con cap, che prevedono una sorta di tetto massimo al possibile aumento futuro dei tassi. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Chiamateci, Rosa e le amiche del centralino sono pronte a rispondervi, prendere le anticipazioni della vostra domanda e poi girarle alla nostra trasmissione. Roberto Nedda, c'era un ascoltatore che non lo chiameremo perché la domanda ci pare piuttosto vaga, ma la leggo io. Euribor, voleva chiedere Nicola da Milano, quali novità? Beh, la più importante l'abbiamo già detta, ha cominciato a rialzare la testa, questo soprattutto la scadenza a 3 mesi e il tasso interbancario al quale vengono agganciati gran parte dei mutui a tasso variabile in Italia e in Europa. Cosa ne dice di questo aumentino che è il massimo da un paio di mesi a questa parte? Sì, per contestualizzare l'andamento, praticamente l'Euribor dai minimi di sempre ha cominciato a muoversi circa 2 mesi e mezzo fa, e quindi anche per non allarmare chi ci ascolta, stiamo parlando di un aumento che complessivamente adesso va dai 15 ai 20 centesimi complessivi. In 2 mesi e mezzo, da un tasso che era addirittura con l'Euribor un mese sceso sotto il 0,5 percentuale, non dimentichiamoci che il tasso della BCE è sempre fermo all'1%, non sta facendo altro che man mano riportarsi in zona di più o meno parità rispetto a quel tasso. Che teoricamente quella fisiologica, no? Esatto, è uguale al quel tasso BCE di riferimento, proprio perché man mano che passa il tempo le prospettive di quello che potrebbe essere un inizio, non più che un inizio, di ripresa economica si avvicinano inevitabilmente, quindi anche i tassi tendono a riportarsi verso quella che potrebbe essere una maggiore parità con il tasso di riferimento vero e proprio, cioè quello della BCE. Tant'è vero che l'Euribor a 3 mesi è comunque intorno allo 0,85, quindi ancora al di sotto di questo 1%, quello a un mese, che comunque parecchie banche utilizzano nell'indicizzazione dei mutui, è comunque intorno allo 0,60. Quindi estremamente ancora contenuti, e al momento non è presumibile che questo andamento al rialzo possa avere un'accelerazione. È probabile che continuerà perché ormai è abbastanza costante, un centesimo e mezzo al giorno da appunto più di 2 mesi, però ecco, oscillerà poi come livello d'arrivo intorno all'1%, perché è fisiologico che questo succeda. Ovviamente se nei mesi successivi dovessero esserci scenari diversi in positivo, soprattutto in termini di accelerazione della ripresa economica, anche questo aumento dei tassi potrebbe avere qualche leggero rialzo, ma le dichiarazioni sia dal lato della BCE che della Fed di recente su uno scenario economico di medio termine ancora abbastanza stabile e quindi statico per quanto riguarda anche i tassi, lascia presumere che fino almeno ai primi mesi, se non addirittura alla metà del 2011, non ci saranno degli interventi veri e propri da parte delle banche centrali e quindi non più di tanto rispetto ai livelli di adesso. Vedremo. Immagino che se anche dovessero esserci non saranno delle, come dire, degli interventi frequentissimi, ci sarà comunque un ritorno ad un aumento, ma sarà estremamente graduale, a meno che non si riperda di nuovo il controllo del prezzo del petrolio, ma insomma sono scenari abbastanza improbabili. Detto questo, Roberto, ti faccio subito una domanda che ci scrive Marco al 349-238-6666. Lui deve recitare a marzo del prossimo anno. E quali sono le previsioni dei tassi per quel periodo? È possibile fare una previsione? La previsione l'abbiamo già fatta, comunque ci appare di fronte uno scenario abbastanza tranquillo e sereno. Detto questo, quello che vorrei dire a Marco, magari Roberto aiutami, è che si può cominciare sicuramente a farsi fare qualche preventivo dalle banche, ma non è detto che questi preventivi poi da qui ad una scadenza così lunga vengano, come dire, rispettati. Per cui che cosa gli conviene fare? Guardarsi intorno, ma ritornare a guardarsi intorno in autunno? E diciamo che se lui ha già fissato il rogito, vuol dire che comunque l'immobile è già individuato, la trattativa è già a buon punto, magari c'è anche un preliminare firmato, e quindi questo è un'ottima base di partenza per ottenere dalle banche dei preventivi effettivi, cioè innanzitutto per valutare rispetto al proprio reddito, alla propria situazione, al proprio acquisto, che importo di mutuo bene o male si può ottenere. No, è che magari da qui a 8 mesi il tema è che possono cambiare anche un po' le valutazioni immobiliari, non dico di molto perché non abbiamo di fronte né un crollo del mercato immobiliare né una ripresa della crescita delle quotazioni, però 8 mesi sono... Non sono indifferenti. Sono un po'. Per cui bisognerebbe analizzare il contesto dell'acquisto, magari ha avuto un'occasione particolare, quindi ha fatto bene a già fissare il prezzo. Inevitabilmente la banca, dato che l'erogazione sarebbe a marzo, farà una perizia molto più sottodata. Ripeto, dato l'andamento immobiliare, ci si può immaginare al limite che il prezzo possa essere leggermente superiore, ma bene o male sarà quello di adesso. Mentre, come dicevi giustamente tu, più vaga può essere la previsione al momento per quanto riguarda i tassi, o meglio, le offerte che ci possono essere in questo momento sui tassi di mutuo, siano essi variabili fissi o cap, non sono indicative di quello che potrebbe aversi a marzo. Ripeto, l'andamento dei tassi non si discosterà di molto come livelli da quello attuale. Si può eventualmente fare i calcoli su qualche decimo in più, giusto per rimanere insomma un pochino più cauti, però inevitabilmente per ora si può solo fare una valutazione di massima, e poi quando si arriva qualche mese dal rogito sarà bene rifare un po' il giro delle diverse offerte, perché in quasi un anno anche il contesto competitivo delle diverse banche cambia. Stiamo anche parlando di un nuovo anno commerciale per le banche, quindi anche gli obiettivi che i singoli istituti si pongono possono essere diversi, e non è detto che quelle che risultano più convenienti adesso possano esserlo l'anno prossimo. Rimangano anche fra qualche mese. Roberto, mi sono presa il vostro osservatorio stampato fresco fresco, pubblicato questa mattina. Quali sono le ultime tendenze nell'ambito delle scelte delle famiglie? Intanto vedo che sono tornati a crescere in maniera abbastanza interessante, forse siamo proprio sui picchi da diverso tempo a questa parte, gli importi medi erogati dal sistema bancario. Sì, no, siamo addirittura non ci sembra importi... una cattiva notizia, nel senso che le banche sono ritornate a far credito quantomeno. Sì, sì, siamo addirittura agli importi massimi di sempre, perché ormai siamo quasi ai 150.000 euro, quindi abbiamo superato anche i picchi del pre-crisi, che lì ci eravamo attestati intorno ai 135.000 euro. In questo caso ovviamente aiuta molto il fatto che i tassi siano molto bassi, quindi a parità anche di redditi, che purtroppo a livello medio non sono certamente cresciuti, si può ottenere una rata un pochino più elevata e quindi anche un importo medio più ampio, e questo unito al fatto che le quotazioni degli immobili sono rimaste abbastanza ferme, se non addirittura in qualche caso si sono ridotte, ha aumentato la capacità di acquisto e di finanziare l'acquisto per le famiglie che in questo momento stanno intervenendo sul mercato. So che tra l'altro questo è un input che non dovremmo dare ai nostri ascoltatori, perché già quando mi fanno questa domanda, fisso, variabile, io mi inalbero un po', perché ovviamente le scelte devono essere fatte in via del tutto individuale, magari anche se l'offerta per esempio del variabile ci sembra in assoluto la più conveniente, magari scegliamo un fisso, ci tranquillizziamo per tutta la vita e in realtà la più conveniente è quella. Detto questo, quali sono le strade più battute dalle famiglie che avete rilevato? No, tra l'altro voi come costruite il vostro osservatorio, Roberto? Questo non te l'ho mai chiesto. Sì, beh, questi sono proprio i dati di tutte le richieste, quindi poi anche di tutti i mutui effettivamente erogati tramite il nostro servizio come intermediazione bancaria, quindi proprio la visione di tutto l'insieme dei clienti che passano attraverso Mutual Like. Tanto per dare un'idea, vuol dire circa 300 richieste di mutuo al giorno, e in tutto il 2009 sono montate a oltre il 4% del totale mercato mutui, quindi una quota sicuramente rilevante, che indica effettivamente come poi la domanda delle famiglie sia abbastanza diversificata, perché grazie al fatto che i tassi sono molto bassi su tutte le forme di mutuo, diciamo che c'è spazio per qualunque preferenza, quindi chi in tutti i casi non vuole rischiare o comunque si sente più tranquillo con la rata che non cambia mai punta comunque sul fisso, e quindi abbiamo circa un 20% di irriducibili diciamo così del fisso, anche se ricordavi correttamente tu, il variabile è così basso che alletta tanti, ma soprattutto quello che ha contribuito molto alla crescita del variabile in questi mesi è stato proprio l'opzione del cap, cioè il fatto di poter avere sì un tasso variabile ma con la garanzia di un livello massimo oltre il quale in futuro, con un paracadute chiamiamolo, tasso, un'ancora di salvataggio, poi magari lo spieghiamo bene, perché vedo che ci sono anche delle domande in questo senso da parte degli ascoltatori. 800 24 00 24, ci sono tante belle domande che stanno arrivando. Domenico da Roma, la posso salutare ma rinviare la sua domanda tra qualche minuto? Ha un pochino di pazienza? Sì, sì, prego. Benissimo, grazie, a tra poco. Eccoci ritrovati. Allora, tra l'altro, Roberto, c'è un ascoltatore che è un po' polemico, però magari io prendo la poca polemica del suo messaggio e ritorneremo poi sui mutui cartolarizzati, che qualche anno fa effettivamente fra moltissimi clienti delle banche avevano creato molti problemi, soprattutto in coloro che volevano trasferire il proprio mutuo da una banca ad un'altra o banalmente rinegoziarlo, e ritorneremo anche su questo aspetto che ci sembrava dimenticato, che ci sembrava non più necessario ritornarci sopra. Invece evidentemente abbiamo un ascoltatore che ci si è imbattuta, avrà un mutuo cartolarizzato, non riesce evidentemente a modificare le condizioni perché ha trovato forse una banca particolarmente ottusa, perché adesso nessuna banca si oppone più alla rinegoziazione delle condizioni del mutuo, anche se lo ha cartolarizzato, ma ci torniamo tra un attimo. Adesso abbiamo in attesa Domenico da Roma, che saluto. Domenico, buongiorno. Buongiorno a lei. Cita. La mia domanda era questa: ho stipulato a febbraio con un mutuo di 150.000 euro, con Euribor a un mese, uno spread relativamente basso allo 0,90, sì, vero, in convenzione, e diciamo avrei la possibilità tra 2-3 anni al massimo di estinguere parzialmente un 70-80%, spero, per dei rendimenti che scadono. Non lo sapete se mi conveniva, con i tassi, se sono in evoluzione, mantenere questa tipologia di mutuo, passare a un tasso fisso o qualcos'altro, in effetti. Domenico, allora intanto io credo che le potremmo dare, se fosse per me, se io lo dovessi dare la mia personalissima, come dire, considerazione, io sono una di quelle che se lo vorrebbe togliere di mezzo il mutuo. Detto questo, ovviamente questa è una sua scelta, una sua valutazione del tutto personale. Potremmo provare, Roberto, a fare 2 o 3 ipotesi magari. Mi chiedevi, non hai capito un aspetto della domanda? Durata il mutuo. Durata, già il mutuo, non abbiamo... La durata del mutuo è una durata trentennale. No, ma io volevo... lo estinguerò sicuramente un 70-80%, quello. Però lei dice magari mi conviene estinguerle un po' meno e magari piazzare, esatto, un po' di liquidità residua di questo investimento che avrà maturato il suo rendimento, Roberto, su qualcos'altro, e magari con i rendimenti che arrivano da un asset investito ripagare i tassi di interesse del mutuo. Non, sì, lo so, gli scenari possibili sono molti. Sì, diciamo che essendo l'orizzonte quello di 2-3 anni prima del rimborso, occorre valutare in quel periodo di quanto sarà salito l'Euribor e quindi qual è il tasso sul mutuo. Ovvio che con i livelli di adesso, nonostante tutto, al di là della preoccupazione di avere un mutuo in essere, conviene tenerselo, perché veramente si rimborsa un po' per volta e si pagano degli interessi quasi al di sotto dell'inflazione media storica europea, quindi veramente c'è il vantaggio di rendere un po' per volta senza che si abbia chissà quale risparmio nell'anticipare il rimborso, e anzi si possono avere i capitali da parte per un determinato rendimento. Tra 2-3 anni sicuramente i tassi potrebbero essere anche 1,5 almeno, più alti di adesso, quindi stiamo parlando di un tasso di mutuo che potrebbe arrivare già intorno tra il 3, dato che lo spread è poi particolarmente conveniente, 3-3,5, e quindi in quel momento l'ideale sarà valutare, uno, quali sono i rendimenti di investimenti alternativi, un livello di sicurezza a seconda poi della predisposizione al rischio di Domenico, disponibili, e quindi capire rispetto a quello che pago di mutuo cosa posso ottenere in termini di rendimento alternativo impiegando quei capitali. Sicuramente, dato che il mutuo è trentennale, estinguerne almeno una parte può essere conveniente, perché nel lungo termine il livello di tassi può anche salire molto rispetto a quello attuale, quindi l'esborso complessivo per il mutuo nei 30 anni sarebbe notevole. Riducendo almeno in parte il debito residuo, Domenico si metterebbe tranquillo che la sua rata non solo si ridurrebbe all'istante, ma soprattutto anche nel lungo termine avrebbe sempre una rata che potrà tenere sotto controllo. Quindi la scelta potrebbe essere anche quella, non di estinguere la gran parte del mutuo, magari anche solo la metà. Sarà Domenico a farsi i calcoli rispetto alla rata che pagherà in quel momento, quando i tassi saranno anche già un po' saliti, ipotizzando anche che possano salire ulteriormente, quindi facendosi aiutare anche da qualche esperto per fare delle simulazioni ulteriori, e individuare quello che potrebbe essere un livello di rata medio del futuro per lui sostenibile. Accettabile, certo. E nel frattempo tenersi la liquidità residua investita o disponibile. Nel momento in cui poi è investita e disponibile, un domani potrà anche intervenire con ulteriori riduzioni. L'importante, visto che il mutuo è trentennale, è farlo soprattutto nei primi 10 anni di vita del mutuo, perché sono quelli nei quali si paga la gran parte degli interessi, e quindi c'è il vantaggio di poter ridurre maggiormente la rata. Tra l'altro, visto che abbiamo anche di fronte a noi, anche se lentamente, un'ottica di rialzo dei tassi di interesse, probabilmente, visto che l'operazione di Domenico potrebbe essere quella appunto di smontare parte del mutuo, e perché nel frattempo liquiderà determinati investimenti, poi se questa liquidità che ha a disposizione potrebbe anche collocarla, Roberto, non so, in un conto di deposito fra un paio d'anni, con i tassi in aumento anche quelli diventeranno un po', certo, più remunerativi, e quindi la remunerazione del conto andare a pagare appunto i tassi di interesse comunque di un capitale, esatto, che con un capitale garantito, perché poi, come sappiamo, in Italia da questo punto di vista abbiamo una legislazione avanzata rispetto al resto d'Europa. Sui depositi bancari c'è una garanzia per il risparmiatore fino a oltre 100.000 euro, quindi tema che ci siamo posti stamattina peraltro in redazione, visto che adesso c'è questa proposta europea di rafforzare le misure di sicurezza appunto per i correntisti, ma magari ne torneremo a parlare più avanti. Ma come diceva appunto Roberto, noi abbiamo forse una delle tutele più importanti europee. Volevo aggiungere qualcos'altro? Sì, no, solo una cosa per completare la risposta a Domenico, che chiedeva anche se poteva essere il caso di passare un altro tipo di mutuo. Dato che lui ha un variabile con uno spread molto contenuto dello 0,90, gli consiglierei di tenere questo, perché passare un fisso vorrebbe dire, nel migliore dei casi, prendere un tasso intorno al 4,5 o comunque sotto il 5, che è un ottimo tasso, ma questo vorrebbe dire che per risparmiare nella media il suo Euribor futuro del mutuo dovrebbe andare oltre il 3,5%, che onestamente come livello di lungo termine di equilibrio è abbastanza elevato, quindi rischierebbe di pagare di più complessivamente con il fisso che con il variabile. Lo spread dello 0,90% è veramente qualcosa di eccezionale adesso sul mercato. Sì, lui parlava tra l'altro di una convenzione. Di una convenzione, ma sicuramente... credo che sotto l'1,20%. C'è qualcosa, si comincia già qualche mese a rivedere qualche offerta sporadica, diciamo così, su singoli prodotti di qualche banca, anche con degli spread leggermente sotto l'1%, ma parliamo appunto di non più dello 0,90 per il momento. La media di un buono spread adesso oscilla intorno all'1,10, 1,20. 1,30 sui prodotti standard. Ovvio, se poi si va su un prodotto cap, ad esempio, con quelli di cui parlavamo prima, gli spread sono inevitabilmente un po' più elevati, circa mezzo punto, proprio perché c'è questa garanzia ulteriore del limite massimo futuro per il tasso. Cosa che ci stanno segnalando anche alcuni ascoltatori. Ritorniamo fra un secondo sul cap. Intanto andiamo ad una domanda che è un classico dei classici, caro Roberto, e ce la fa Salvatore da Milano. Salvatore, eccoci a lei, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io un po' di anni fa, 3-4 anni fa, ho fatto un mutuo fisso per 15 anni. Mm-hmm. E a tempi non era ancora, c'era il crollo delle borse, quindi il variabile era ancora alto. Io posso, si può trasformare in variabile? Sì, sì, certo, tutto si può fare adesso, Salvatore. Per fortuna il sistema è diventato molto flessibile. Roberto Anedda ci chiede qualche altro dettaglio sulla condizione del mutuo, per capire anche se si ricorda il livello del tasso. Quant'era il tasso? 4 anni fa? Sui 5,75. Il fisso? Sì, il fisso. Beh, siamo a livelli leggermente superiori a quello attuale. No, sicuramente, quindi, essendo un mutuo di 15 anni, di cui quindi sono stati pagati i primi 3-4, c'è ancora spazio, visto che il tasso è 5,75, di passare magari a un variabile, perché avrebbe il vantaggio di trasformarlo in un tasso molto, praticamente molto più basso. Gli si dimezza la rata, di sicuro. Magari dimezzare no, perché c'è di nuovo il ricalcolo del mutuo, però ad esempio potrebbe decidere di fare una durata di soli 10 anni, quindi pagando ancora meno interessi, rimborsando ampie quote di capitale fin da subito e soprattutto, dato che, come dicevamo all'inizio della trasmissione, l'orizzonte di medio termine, cioè dei prossimi 2-3 anni, non è di un rialzo smodato dei tassi, per diverso tempo lui avrebbe con un variabile un tasso che potrebbe essere ampiamente più basso di questo fisso che sta pagando adesso. Certo. Quindi sicuramente potrebbe essere un'opzione, diciamo che, insomma, sulla carta il passaggio del variabile a queste condizioni, 10 anni di fronte a sé in uno scenario di aumenti che saranno piuttosto contenuti nel medio periodo, direi che questo è un caso in cui effettivamente forse si potrebbe suggerire un cambiamento di questo tipo a Salvatore. No, però certamente, solo studi bene. Anche perché sì, questo sì. Diciamo che, essendo poi fino adesso abituato a pagare una rata tarata su questo tasso, si troverebbe con il vantaggio di pagare una rata che potrebbe essere molto più contenuta, ovviamente con l'accortezza di tenersi qualcosa da parte. E nel lui comunque in cui sa già che è in però... grado di pagare questa rata al 5,75, esatto, quindi esatto, sa già il livello massimo verso il quale potrebbe tendere. Secondo me è una soluzione che potrebbe rata... presentare delle buone opportunità di risparmio. 10 anni, certo, se uno ha un mutuo di 30 anni davanti a sé, Roberto, magari insomma un'opzione di questo tipo, un cambiamento potrebbe essere un alleggerimento notevole dell'impegno mensile, però nel lungo termine lo sbalzo d'umore del mutuo potrebbe essere come più forte. Come sempre, quando ci si affida a lungo termine a un tasso che varia, e quindi a una rata che varia, bisogna mettersi nell'ordine di idee di fare sempre i calcoli su una rata che non è quella iniziale, come può essere quella di adesso con tassi molto bassi, ma più elevata, e quindi tenersi qualcosa da parte per poi poter ripagare gli aumenti successivi. Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, stiamo facendo un po' il tagliandino preferiale del nostro mutuo. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, come sempre sono tantissime. Allora, abbiamo ancora un minuto e mezzo prima di andare alla prossima pausa, possiamo sentire tranquillamente chi c'era prima. Paolo, Stefano o Cosimo? C'era prima Stefano da Rovigo, buongiorno. Buongiorno, una domanda. Io ancora a fine 2006 ho trasformato il mio mutuo in un tasso variabile a rata costante. Volevo sapere se è una scelta giusta o se adesso, visto che i tassi sono bassi, conviene cambiare. Ho altri 20 anni io da pagare. Ci può dire, che ne so, l'importo che ha fatto? L'importo erano 130.000 euro circa, e pago circa 750 euro a al mese. Quindi praticamente il suo è un variabile a rata costante. Vorrebbe trasformarlo in variabile puro, chissà quale sarebbe. Sì, però volevo sapere se conviene o non conviene, oppure potrei anche abbassare gli anni, adesso potrei pagare una rata anche un po' più alta volendo. Roberto, sì, aspetta un attimo, sentiamo suggerimenti perché in viaggio, riflettiamoci un po' bene su questa cosa. Allora, siamo a Stefano da Rovigo, che nel 2006 ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile a rata costante, 150.000 euro, gli rimangono una ventina d'anni. Roberto, allora il tema è sempre quello, è chiaro che in questo momento una trasformazione radicale in un variabile puro porta la rata su livelli assolutamente eccezionali, molto bassi, per cui è in un'ottica prettamente economica la scelta più conveniente, però scegliendo un mutuo le tematiche e i parametri da tenere in considerazione sono altri. Detto questo, su questo caso forse non è detto che gli convenga poi molto fare questo passaggio. Sì, diciamo qui la particolarità è proprio il tipo di mutuo, perché trattandosi di un mutuo sia a tasso variabile ma a rata costante, e questo vuol dire, lo ricordiamo per tutti quelli che ci ascoltano, che la rata del mutuo è stata calcolata al tasso di partenza, quindi la fine del 2006, e poi l'importo è tenuto costante. E semplicemente quello che varia in questo mutuo, a seconda di come vanno i tassi, è la durata complessiva del rimborso. Quindi quando i tassi salgono, inevitabilmente anche la durata si allunga, perché aumenta il totale degli interessi che dovranno essere pagati rispetto al calcolo iniziale. Quando viceversa i tassi scendono, ed è quello che è successo praticamente da un anno e mezzo a questa parte, la durata complessiva del rimborso previsto tende a ridursi, perché io con la rata che sto pagando anticipo il rimborso sia degli interessi che del capitale. Quindi diciamo che in questo caso Stefano, grazie al forte calo dei tassi che c'è stato nell'ultimo anno, sta pagando un tasso di interesse che è molto più basso rispetto a quello a cui è stato calcolato il suo mutuo in partenza, perché alla fine del 2006 i tassi medi erano tra il 4,5 e il 5 sul mercato italiano. Adesso, come dicevamo, sui variabili siamo intorno alla sotto il 2 addirittura, o poco sopra il 2 per quelli garantiti da CAP, e quindi in questo momento gli converrebbe onestamente tenerlo, perché fino a che il suo tasso attuale è ampiamente al di sotto di quello al quale era stato calcolato il piano ammortamento e quindi anche la rata costante di partenza, lui sta in realtà accorciando il periodo residuo che gli rimane per rimborsare il mutuo, quindi quei 20 anni potrebbero anche ridursi di diversi anni. Ovvio che a questo punto Stefano deve fare una valutazione, se preferisce godere di un vantaggio di lungo termine, cioè potenzialmente ridurre la durata residua del mutuo approfittando proprio di questo grosso risparmio iniziale, o se passare a una formula diversa che gli permette di avere una rata magari addirittura più bassa, mantenendo però la durata complessiva del mutuo sui 20 anni. A seconda delle offerte, qui si tratta di fare poi delle simulazioni un pochino più approfondite, sempre su queste cose anche noi aiutiamo i nostri clienti, certo, ovviamente abbiamo una serie di strumenti per farlo, per valutare tra le due alternative innanzitutto che effetto avrebbe sulla rata con la nuova soluzione, e soprattutto in prospettiva di lungo termine quale potrebbe risultare più conveniente. Infatti, perché ci sono tante domande diciamo del tenore di quelle che abbiamo già ascoltato e gli ascoltatori che ci hanno chiamato all'800 24 00 24, tutti si chiedono quale può essere la convenienza attuale della trasformazione del mutuo, e quasi tutti chiedono ovviamente di passare dal fisso al variabile attuale, che è a livelli bassissimi, lo ribadiamo. Detto questo, la convenienza non si può valutare solo ed esclusivamente sul vantaggio che si avrà da qui ai prossimi 3, 4, 5, 6 mesi. Se avete un mutuo di 25-30 anni, fatevi fare un chiarissimo piano di ammortamento con 2-3 scenari possibili di variazione dei tassi, in modo tale che potete fare una considerazione su quella che potrebbe essere la rata massima da andare a sopportare. Certo, la rata massima da sopportare potrebbe essere quella che attualmente già si paga, quindi un livello già sostenuto, per cui già questa è una considerazione importante da cui partire. Però insomma, le banche sono lì anche per quello, e quindi siccome vedo anche molte segnalazioni ancora di atteggiamenti di ostracismo da parte delle banche stesse, che non danno grande consulenza in questo senso, e allora voi magari sceglietene un'altra. Ce ne sono tantissime sul mercato, per cui sono sicura che alla fine della ricerca si trova quella chiara nell'atteggiamento e nella spiegazione anche del funzionamento del mutuo e dei piani di ammortamento. No, perché stavo anche guardando, Roberto, che ci sono molti ascoltatori che ci segnalano ho avuto un rimborso per esempio per investimenti, c'era Giancarlo che voleva raccontarci, conviene estinguere il mutuo con l'1,75% di penale. Le penali sono state praticamente quasi tutte abolite, a parte per i mutui molto vecchi, ma l'1,75% io non credo che esista addirittura più sul mercato. Non è un livello, non è un'opzione di penale, a meno che non siano di quei mutui che non rientra nelle categorie, diciamo, non dico protette, ma comunque regolamentate da quella modifica delle penali. Insomma, bisognerebbe eventualmente analizzare quello, altrimenti. Così come il dire no alla rinegoziazione alla surroga se il mutuo è cartolarizzato. Ci ritorniamo su questo aspetto. Sì, sì, ma allora, qui vale la pena di fare un quadro velocissimo complessivo della surroga. Allora, la surroga, detta anche portabilità, dà la possibilità di spostarsi con il proprio mutuo da una banca all'altra, dove vuol dire non fisicamente spostare il mutuo, ma semplicemente avere lo stesso, rimborsare lo stesso mutuo con una nuova banca, con nuove condizioni, cambiando quindi anche il tasso di interesse o la durata. Quello che non cambia è l'importo residuo da rimborsare. L'operazione è e deve essere a costo zero per il cliente, quindi non paga né penali né istruttorie né notaio, è tutto a carico della nuova banca ed è anche tutelato il cliente perché questa operazione venga fatta in determinati tempi. La banca che non agevola, diciamo, la chiusura dell'operazione è sottoposta a delle penali, cioè una penale dell'1% del capitale residuo da rimborsare per ogni ritardo successivo al mese di tempo entro il quale espletare la pratica, a meno che non ci siano complicazioni particolari. L'operazione è usufruibile senza alcun limite anche per i mutui cartolarizzati, così come se uno mutuo cartolarizzato e anche non lo vuole surrogare ha sempre diritto di continuare a interloquire con la propria banca o avere sempre chiarezza di quelli che sono i suoi estratti conto, necessità anche di estinzioni anticipate e così via. La cartolarizzazione, è stato chiarito più volte in questi anni, non può costituire un limite al diritto del cliente sia nel rapporto con la banca che non subito le banche hanno chiarito questo aspetto, perché la cartolarizzazione, che tra l'altro è, come dire, anche tutta quella operazione che sta alla base della crisi finanziaria che ci ha travolto. E tra l'altro un ascoltatore ci chiede invece: è possibile che la banca rifiuti la sospensione del pagamento delle rate? Quindi probabilmente un ascoltatore che ha bisogno di aderire al cosiddetto piano famiglie che è stato varato dall'ABI quasi 7-8 mesi fa, appunto, con le associazioni dei consumatori, proprio perché un mutuo è cartolarizzato. E ci mancherebbe pure, assolutamente no. Anche questa quello è stato ben chiarito nel quindi, testo. Insomma, se abbiamo un bel po' di materiale sui mutui cartolarizzati che ancora vengono in qualche maniera adottati dalle banche stesse per non fare alcuna operazione di miglioramento della situazione del proprio cliente, scriveteci, perché noi le giriamo subito all'ABI e facciamo prendere per le orecchie questi direttori di banca che secondo noi sono solo banalmente pigri. Un altro ascoltatore, Marco, ci scrive: il mio mutuo ha una clausola stupenda, il tasso non può scendere sotto il 3%, sono stato distratto e ora pago il famoso floor, il pavimento. Roberto, purtroppo sì, Marco ha ragione nel dire che è stato distratto, perché di per sé è una clausola che non può essere considerata magari gliel'ha venduta come una cosa magari lì bellissima. Teoricamente il vantaggio per il cliente del floor dovrebbe essere che, dando la garanzia alla banca di avere un tasso minimo al quale potrà comunque essere ripagato il mutuo, dovrebbe consentire alla banca di applicare condizioni migliori in termini di spread o di altre spese sul mutuo stesso. Però questo poi purtroppo non sempre succede, quindi, come abbiamo più tante volte ripetuto, occorre sempre non solo leggersi tutte le clausole, ma soprattutto confrontare veramente tanti prodotti, farsi spiegare un po' anche, insomma, da qualcuno di esterno. Insomma, operatori come Mutuo Online esistono apposta, perché poi sono gratuiti, quindi c'è il vantaggio di avere dei consulenti a disposizione che, se non altro, si può utilizzare a piacimento per fare il check-up della propria situazione, sia del mutuo esistente che di quello da fare, capire effettivamente di volta in volta quale può essere il vantaggio di un'offerta o di un'altra, e poi, interloquendo con le banche, sempre anche tramite il servizio di consulenza, vedere quella che realmente poi si mostra più flessibile e disponibile. Allora, Cosimo da Torino, minuto e mezzo di tempo prima di salutarci, deve essere Pronto? Telegrafico con la sua domanda. Grazie. Buongiorno, grazie Cosimo. Sì. Sì, allora, sì. Io, al contrario dell'altro ragazzo, sono passato dal fisso al variabile l'anno scorso, sì, con opzione. Lo posso fissare sul 2, sul 5 o sul 10 anni, con l'IRS che seguo a 2, a 5, a 10 anni. Certo. Per esempio adesso il 2 anni è 1,42. Io ho uno spread di 1,2 che non cambia. No, e che non è proprio neanche malaccio, insomma è in linea col mercato. Sono indeciso se fissarlo sul 5, che adesso l'IRS è a 2,08. E con l'1,2 mi verrebbe un fisso a 3,2. Secondo voi in 5 anni lo fa un ciclo l'Euribor? Cosimo, si fermi lì, bravissimo Cosimo, ma noi gli dobbiamo rispondere in 30 secondi. Beh, Roberto, devi fare un miracolo. Io onestamente andrei sul 5, perché 3,2 su 5 anni comporta che anche nonostante i primi due anni l'Euribor possa essere più basso, c'è comunque di mezzo lo spread, e soprattutto invece dal terzo anno in poi insomma il tasso potrebbe salire maggiormente, quindi il 3-2 è un buon punto di equilibrio come mio, al limite per pagare tanto quanto il variabile, ma forse anche per risparmiare qualcosina. Roberto, quando è che vai in vacanza? Forse prima o poi ci andrò a inizio agosto, ma allora insomma... magari prima di agosto un'altra puntatina, un altro tagliandino riusciamo a farlo. Sì, volentieri. Prima benissimo, di Ferragosto come senti, se ne può parlare quanti ancora ascoltatori molto sono affezionatissimi a te. Grazie a Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui. Grazie Online. A voi, noi ritorniamo con Salvadanaio domani. Lorenzo da Novara era pronto in attesa. Lorenzo, non abbiamo fatto in tempo, ci scriva, le faremo due righe di spiegazione rispetto al quesito che ci ha posto. Buona giornata a tutti.